ad alta voce. Monica De Muro legge L'Iguana di Anna Maria Ortese. Il terribile Mendes. Una questione di sindacati. Assurdo. Confusione. Neppure qui diede spiegazione del deserto di mobilia, né manifestò imbarazzo per il fatto che non vi era da sedere. Pareva vi fosse nel suo atteggiamento non so che nuova spigliatezza, risultato del colloquio avuto col prelato, e che tuttavia non si sarebbe manifestata se l'indiscrezione che vi era nel turbamento del conte non l'avesse, per così dire, eccitata. O forse egli, sempre per i risultati di quel colloquio che lo avevano fatto ormai sicuro di se stesso, era in quello stato di forza che favorisce, non diremo disprezzo, ma certo non curanza di quella opinione che altri può farsi del nostro comportamento. Così il suo atteggiamento verso il Lombardo, poc'anzi amico dell'anima, era improntato in quel momento come per un rapido riscaldarsi di detta forza e una specie di sollevamento del suo intimo a una superficialità indicibile che non celava una netta impazienza. Con un accento che gelò il cuore del povero giovane, così disse: «Parla pure, mio caro, ti ascolto». «Mai più». Due ore prima, quando sulla spiaggia gli prendeva la mano, il conte avrebbe creduto che il suo sentimento per il marchese potesse dissolversi da un istante all'altro, come un pugno di schiuma, e non rimanere al suo posto che un'assurda disperazione di antico servo. Però, un attimo dopo, alzando in viso a quello sconosciuto due occhi limpidi e mesti, quelli stessi che avevano conquistato Ilario e aiutato l'Iguana, il conte dové rendere giustizia ai fatti. Non era più quest'uomo che gli stava davanti, il trepido Ilario, ma il duro e sfacciato Mendes, il giovane bellissimo e sicuro di sé, che gli era apparso nella notte sul balcone. E qui la debole mente del Lombardo vacillava. Qui, non ritrovando più, era chiaro, il ragazzo sensibile, il commosso orfano di Ocagna, ma uno sfrontato signore, doveva ammettere che di tali mutamenti o metamorfosi, non avendo alcuna esperienza, doveva subire disarmato l'orrore. E sentendo che alcuna abilità lo aiutava, essendo egli rimasto sempre al di fuori della vera cultura che spiega tali fenomeni o trasferimenti dell'io, provava in sé, davanti a tale precipitare di eventi, lo svenimento dei poveri di spirito, ai quali niuna terra è sicura, niuna mano promette di avvicinarsi se non per uno schiaffo. Ci volle del tempo, ma in lui qualcosa era al di sopra, sebbene miseramente, di ogni universale orrore, perché egli ritrovasse in un sé così sfinito e come sfranato e perduto entro una nuvola nera di scoperte, la voce che gli aveva ordinato di venire in Ocagna, come sempre gli aveva chiesto di seguire il giusto in qualunque deserto fosse. E così, mentre il sorriso del Mendes, perché non era altri che il vero Mendes ora, pericolosamente mutava, deformandosi in un'aperta impazienza, guardando dietro le vetrate sbattere il mare, così il conte disse: «Anzitutto, mio caro, perdonami se nel nostro colloquio di alcuni anni fa mi permisi di mostrarti amicizia. Obbedivo, credimi, a un sentimento sincero. Mai avrei sopportato di offenderti. Di ciò che non volle offenderti, che questa intenzione era lontana dall'animo mio, puoi farmi credito, sebbene io non abbia ora di che pagartela». Il Mendes ha queste parole come fossero più che ovvie e senza badare a quello straziante sbandamento del conte circa l'entità del tempo passato, poche ore appena, con un vago sorriso sulle labbra, così rispose. Andiamo avanti, se non ti dispiace. C'è poi la faccenda del tuo popolo. A questo era ridotto il conte nella sua disperata incapacità di affrontare l'argomento della creatura e con questo potente signore, che il solo farne menzione, non a se stesso, naturalmente, ma ai padroni, lo riempiva d'angoscia e ora l'istinto stesso di conservazione lo aveva portato a dire popolo, che non significa nulla, invece di bestia osserva qual era la creatura. Il giovane, fortunatamente, capì. La bestiuccia, vuoi dire? Sì. Fece con la fronte imperlata di sudore. Non so cos'era in quel giovane, forse il fatto che mentre lui parlava e soffriva, quello, con un certo strano sorriso, si mordicchiava le unghie, ma il conte sentiva freddo e una oscurità crescergli dentro come se stesse per svenire. Qualcosa, proseguì dopo aver atteso invano un incoraggiamento, il più modesto dei cenni a sollievo della sua angoscia, qualcosa, mio caro, ha fatto sì che i tuoi rapporti con l'anima stessa di quest'isola, intendo la tua servettina, la tua cara, un tempo buoni e amichevoli, mutassero. Qualche colpa che non le perdoni? Tanto te lo chiedo, tanto, permettimi, insisto, in quanto sento che la tua partenza è non solo prossima, ma definitiva, eterna, e io vorrei occuparmi di essa, aiutarla a fiorire, ma vedo che, perduta dietro una tua antica promessa, si rifiuta di vivere, va morendo. Ciò che si aspettava, uno scoppio d'ira, non venne. Risentì solo il tuono di poc'anzi, che era chiaramente il mare sulla battigia, e in una luminosità più gialla che livida, la quale riempiva l'aria del cupo salone, vide il volto del Mendes per un solo istante affinarsi e le sue ciglia dorate sbattere tristemente. Gli parve che ciò volesse significare speranza per la creatura lui cara, ma si sbagliava, in quanto su quel viso succedeva ora non so che rigidità, elevando su lui i begli occhi azzurri, dove erano indifferenza e una tetra curiosità, il marchese fece «Le hai parlato?» «Sì, capisco», disse il marchese facendosi pensieroso, e soggiunse «C'è un equivoco e posso chiarirtelo in due parole». Dipende da nient'altro che un'erronea interpretazione della funzione dei sindacati. Come tu sai, essi stabiliscono il versamento di una certa tassa a favore dei servi per la loro vecchiaia e, in mancanza di ciò, un semplice aumento del salario. Essa, in qualche modo, ne aveva sentito parlare e chiese, se non quella previdenza, un aumento. Non aveva considerato che mancava lei la iscrizione. Così finora non è stato possibile accordarle niente tutto qui. Vi fu un lungo minuto di silenzio in cui in luogo del tuono si udì il vento ed era come una folla di morti che attraversasse spaventata l'isola, inseguita da un esercito di demoni che li pungolavano, come fa il mandriano coi buoi. Essi, passando davanti alla casa, ripetevano allo stranito conte «Bada! Bada!» e il gentiluomo sentiva che non poteva farlo e guardava il marchese nello stesso modo tra supplichevole e severo della iguana, a ciò che scegliesse tra menzogna e verità, tra sanità e alienazione, a costo di morire scegliesse la non alienazione. No, non di questo mi ha parlato, non di questo si lamenta. No? E di che scusa? Mi ha fatto capire, ma non te ne avere a male, Diletto, comprendila, che in altri tempi, in non so quali tempi della vostra amicizia, tu le avresti promesso di portarla con te in paradiso e poi ti saresti rifiutato. Come morso da un serpente, il marchese alzò la testa, ma non era sconvolto, bensì assai attento, quasi una deserta disperazione lo illuminasse. «Io le avrei promesso questo? Ti ha detto così?» Non attese risposta, ma giungendo le mani e incrociando le dita fino a farle spezzare, si scostò dal lombardo e andò su e giù per la stanza, ripetendo come impazzito e tuttavia con un che di selvaggiamente ironico: «Incredibile, sorprendente, pazzesco!» Poi con una specie di forsennata incredulità: «In paradiso! A questo siamo giunti!» Il conte piangeva. «Non piangere, Daddo!» disse il Mendes, tornando a gran passi verso di lui e arrestandosi a lui di fronte. E il conte vide come la collera, la nobiltà, la grandezza della sua stirpe o chissà che altro lo avessero reso meravigliosamente bello. I suoi abiti, i medesimi che gli aveva visto all'arrivo, splendevano, quasi sostituiti da altri, ma fiammanti, e ciò nella frazione di un attimo. Tutto in lui era bello, virile, nuovo, e il vento della speranza, di una sublime speranza, pareva gonfiasse quella giovane vela. Barcollando quasi, come una barca nel Turchino, spinta dal libeccio, egli soggiunse: «Del resto, non è più qui.» Si sentì bussare piano alla porta e al rauco «Avanti!» del Mendes si affacciarono Felipe e Ippolito, anch'essi, come il marchese, con un che di ricco e di nuovo, in strano contrasto con un sacco pieno di pietre, tali sembravano, un bel misero e tetro in volto che insieme sostenevano e, malgrado si agitasse, sembrava destinato al mare. «L'arcivescovo vuole parlarti», sussurrò Felipe. Forse si sbagliava, ma al conte, nel suo dolore, al quale andava sempre più mescolandosi una grave debolezza, una lucidità febbrile, parve che ambedue i fratelli fissassero un attimo quelle pietre, con una specie, non diremo di pietà, ma memoria e pena, che tuttavia non mutava il loro animo e portò a galla di quello del conte, con un senso di soffocamento, la certezza di un delitto. «Non permetterai denaro, ascolta, vado a prenderlo», disse vacillando, tornandogli sulle labbra quel ridicolo balbettio di quando era sconvolto. Ma né il Mendes né quei signori sembravano udire. Pareva vi fosse di fuori una grande agitazione che non era o non era solo della tempesta marina. Si sentiva gridare e un po' egli credette che fosse la servettina che si ribellava all'amara sua sorte. Poi gli parve, il che era impossibile, un coro di voci yankee, le stridule voci della notte, che come da un altoparlante imponessero al marchese di raggiungerle. Vi era di tutto in quel caos: lamento e pianto, riso e orgogliosa sicurezza, e le suppliche del passato e i comandi dell'avvenire. E vi era lo spirito della natura e la natura stessa nella sua sana rabbia, ma vi era soprattutto un fatto: che la troppo provata anima dell'architetto delirava. Egli udì ancora queste parole, in cui in realtà e simbologia erano purtroppo, come nei romanzi di avanguardia, disperatamente commiste e lo agghiacciavano. Cuciniere. Ormai il tempo non è più buono. Già le onde sparano e i Hopkins hanno deciso di salpare immediatamente. Perciò sbrigati, si attendono da te le ultime disposizioni. Mendes, irritato. Non mi direte che non sapete cavarvela senza di me, no? Sto parlando con questo signore. Felipe, chiamalo signore. Mendes, c'era il Segovia fino a pochi momenti fa in corridoio. Non lo avete incontrato? Non è a bordo? Cole, meravigliato. Quale bordo, signore? Ma scostatevi dal pozzo, potreste cadervi! Daddo al pozzo. La bella bambina. Armato. Sulle tracce dei colpevoli. La scena infatti era mutata e per un attimo, ritrovando sul proprio capo quell'aria grigia e sfocata del mattino, parve allo straziato animo del conte ritornare alla mai, come allora, gradita normalità. Vide il cielo, sentì la pura ventilata aria dell'oceano e si illuse per un attimo di essere il medesimo Aleardo di sempre, che era sbarcato il giorno avanti in quell'isola malinconica. A fianco di lui non più il Mendes ora, ma il buon Ilario, coi suoi modesti vestiti da giorno, lo rassicurava. E così i suoi cupi e squallidi fratelli e quel buon ometto del Cole. Ma vi era qualcosa nei loro visi tesi e agitati, curvi intorno al pozzo, che lo faceva star male. E improvvisamente egli sentì che la sua vita era finita, che mai più tornerebbe a Milano, né a bordo, né vedrebbe l'azzurro mare e Palos e altri porti, vedrebbe Genova e ripercorrerebbe la diletta via Bigli. Tutto ciò non era più possibile, perché la iguana era morta. Si piegò sull'orlo del pozzo e la vide, o credé vederla, 20 metri più in fondo. Vide una creaturina bellissima, tutta vestita di merletto bianco con una fascia rosa alla cintura e 2 scarpini anche rosa. Essa stava inginocchiata sul fondo, immobile, come se dormisse, nello stesso atteggiamento in cui egli la vide la notte nello scantinato. «Ma è viva!» disse, e poi subito dopo, con un misto di dolorosa sorpresa. «Ma è un'altra!» Guardando meglio, non scorse più nulla. «Secondo me non è più qui», disse Ilario, che non aveva gli badato. Il suo viso era rosso, bruciate le guance di lacrime, e si capiva quanto in fondo la creatura gli era stata cara. Si scostò dal pozzo. «Vi è dell'acqua in fondo, signor Marchese», disse il Cole. «Un po' d'acqua, ma basta ricoprire qualunque creatura». I 3 uomini si allontanarono un po' dal pozzo. Erano rimasti, lì accanto, solo Cole e il conte, il quale, fosse la febbre che lo teneva o altro, continuava a scorgere sul fondo qualcosa che lo faceva piangere, e cioè sempre quella diletta, fatata figurina. Ecco che ora aveva una mano con le sue 5 ditina scure che si muovevano e gli facevano cenno che erano 5 anni che si trovava laggiù e molto soffriva. «Iguana!» gridò il conte con un dolore che lo faceva impazzire. vide una corda pendere dalla parte superiore del pozzo, non molto lunga, ma poteva bastare, e risolse di scendere giù. Salì sull'orlo del pozzo, ma poi, mutata l'idea, in quanto sentiva d'essere stato ingannato, tornò in sala. Era dunque la 15ª puntata dell'Iguana di Anna Maria Ortese, letta da Monica De Muro per Ad Alta Voce. Alta Voce è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, per la regia di Riccardo Amorese, ed è sempre riascoltabile su raiplayradio.it.